Seroblio, Big Band DJ, Melso, Milano. Questa è la mia sagoma. Eccezionale forma, dentro l'anima. Remix 2007. Sagoma di un uomo senza una precisa forma, tentacoli di pietra. Sagoma di un uomo senza una precisa forma, tentacoli di pietra. Sagoma di un uomo senza una precisa forma, tentacoli di pietra si attaccano alla pianta della mia esistenza, si fortifica, rami trasparenti dalla nascita, giudicati troppo stabili, strumenti manovrati, troppi alibi e la gente possiede percezioni per vederli forze avverse, sono immobili come parole perse, privi di elementi discutibili, influenzabili, al primo impatto indescrivibili, magnanimi, nel buio pesto lineamenti, sembianze, mille aspetti, volti assenti, incorretti, maledetti, non appartengo al mio carattere, ma ancora stringo i denti, fuori dalle viscere, lotto coi perdenti e nascondere lo scrivere, mi è impossibile, fumo pacchi da venti, come spiegava Pirandello, siamo intrappolati nella forma dall'immenso, turbine del vuoto, bevo assenzio, brucia come paglia, la mia famiglia in un incendio, la voglia di riaverla nel cervello, sconfitto, non so fare scelte, trafitto, da una freccia scaturita, dalla mia stessa mano, senza via di fuga, il cielo m'aiuta, natura come un puzzle, vento di bufera, corrente distruttiva, inetta nella sera, forza primitiva, sono solo a un passo dalla prigione, perdo la calma, la mia ragione, ehi, questa è la mia sagoma, eccezionale forma, dentro l'anima, questa è la mia sagoma, eccezionale forma, dentro l'anima, scrittore verosimile, narratore inattendibile, la mia indole fantastica e infallibile, compilo pagine, diario solitario come un bacio troppo fragile, sopprimo, sensi di colpo esprimo, impulsi inconsapevoli sui vetri col turbante di un fakiro, e poi lavoro con orgoglio, tu cerca l'erba voglio, non sono un menzognero neanche in preda alla paura che mi sfiora su un convoglio, dopo il cielo mi consola se ti imbroglio, tu pensa al portafoglio, tu pensa al portafoglio, ma l'arte non si vende, non scrivo per il soldo, perimetro complesso, stretto, chiuso, cupo, vero, mi stringo come un nodo, lupo, serio, mi infizzo come un chiodo, esplode sto vulcano, questo toro, questo insano, questo moro, numero incastrato nel sudoku, sì sì voglio un centimetro di sfogo, voglio il pogo di una massa devastata dalla pula nel G8, voglio un lotto, se la sagoma dei miei problemi prende forma, nei tuoi schemi sono morto, e lasciami un po' stare, sono morto, se la sagoma dei miei problemi prende forma, sono morto, questa è la mia sagoma, eccezionale forma, dentro l'anima, questa è la mia sagoma.